suoni dello stadio, nell'armadio, in fondo alle cose che mi riportano a te. Ho bruciato tutti i tuoi jeans con i tuoi CD insieme ai film di Bruce Lee. Cosa ci facciamo qui? Siamo sempre qui. Non eri tu che non volevi il tira e molla. Ho smesso di cercarti nella folla. E hai provato una nuova ma si accolla. Non c'è due senza tre, non c'è lei senza cash. Come no, come no, come no. Stasera dici che resterai sobrio. Come no, come no, come no. E poi finisci sempre a fare il solito. Come no, come no, come no. Perché devi fare il fenomeno. Se quando arriva il mattino cerchi me sul cuscino. Tra noi era finita, come no. Io e te siamo lo show. Sai che spettacolo. Una serie di errori con le sue stagioni che conosco già.